want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Microphone check. Il suono della musica di JJ Telesco. Pronti per il soundcheck di oggi? Buon pomeriggio da JJ Telesforo, pronti per parlare ancora una volta della nostra voce, uno strumento che non conosciamo benissimo, anche se siamo dei professionisti. E soprattutto i professionisti, cantanti, attori, doppiatori, persone che utilizzano la voce per motivi professionali, non conoscono lo strumento. Allora, per saperne di più, abbiamo invitato oggi una bellissima dottoressa, la dottoressa Nunzia Carrozza, logopedista, al tempo stesso insegnante di canto e pianista. Quindi complimenti, perché mi sa che non hai più minuti a disposizione per la tua vita privata, ma ti dedichi completamente alla musica e alla voce. È vero, assolutamente sì, lo ammetto. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e benvenuti. Quanto è delicata la nostra voce, dottoressa? È delicatissima, perché risente di una serie di fattori che altri strumenti non hanno, che possono essere i fattori climatici, ambientali, lo stress, i fattori ormonali, insomma un bel po' di cose che influenzano le nostre corde vocali. E così, come un sassofonista deve conoscere come è fatto il suo strumento, anche noi cantanti, doppiatori, attori dovremmo sapere qualcosa anche da un punto di vista anatomico della nostra voce. Come funziona la voce? Hai colpito nel segno, JJ. Infatti spesso e volentieri il limite è proprio questo: si hanno pochi elementi di conoscenza fisiologica del proprio strumento e quindi facilmente si può rischiare di incappare, insomma, in qualche errore che potrebbe costarci caro. Gli errori si fanno anche da bambini, a volte i genitori colgono un tipo di talento particolare nella voce del proprio figlio e lo mandano subito a fare lezione, e il maestro, magari non così esperto, inizia a fargli fare esercizi un po' complessi con intervalli complicati e si rovina subito la voce e quindi le corde vocali del ragazzo. Quindi che cosa possiamo consigliare noi subito? La prima cosa assolutamente indispensabile da fare è una visita foniatrica, proprio per vedere lo stato di salute del proprio strumento, da piccoli ancora di più, perché è uno strumento in via di evoluzione che cambia col tempo. Io sono afono più o meno da 35 anni, da quando faccio questo lavoro, ma anche tu vedo che non sei ben messa, dottoressa, quest'oggi. Che cosa hai combinato? Sono reduce, insomma, da una flogosi delle vie aeree, però ti ho portato un regalo che è utile sia a me che a te per recuperare in uno stato di salute vocale che non è proprio ottimale. Mi hai portato questa mascherina per un'anestesia volante, mi devi fare? Hai colpito nel segno, perché in realtà è una mascherina usata soprattutto in sala operatoria per effettuare l'anestesia. È conosciuta in ambiente come mascherina di Borragan, prende il nome da un famoso foniatra spagnolo, ed è una mascherina, lo spiego per i radioascoltatori che non la vedono, con un semplice foro centrale ed un bordino di gomma che le permette di aderire perfettamente al viso tra naso e bocca. Ho capito, ma a che serve? Se te lo dico tecnicamente, serve per la retrazione delle false corde, una delle cose per cui possiamo utilizzarla. In pratica ci serve per riscaldare la voce in pochissimo tempo, in modo da renderla assolutamente velocemente utilizzabile nella maniera più, come dire, morbida possibile. Lo farò quando mi troverò da solo nel mio camerino prima di salire su un palcoscenico, perché non posso farmi vedere con questa cosa sul volto. Chissà che cosa possono pensare, che sto lì agli ultimi giorni di vita. Allora, parlando di voce, dottoressa, vorrei farti ascoltare una bellissima voce, una cantante che sicuramente conosci e che conoscono gli appassionati di musica e di soul e di rhythm blues, la voce splendida, educata ma naturale, perché parliamo di voce naturale, quella di Regina Bell, un classico intitolato What Are You Afraid Of, ovvero di che cosa hai paura, mio caro amico, e non bisogna avere paura quando poi ti trovi in studio di registrazione con dei grandi maestri, e qui gli arrangiamenti al pianoforte c'è George Duke con Regina Bell al soundcheck di Radio 24. Love is made up. suono tipico delle produzioni del grande maestro George Duke per la voce di Regina Bell, regina di nome di fatto perlomeno negli Stati Uniti, non credo si sia mai esibita dal vivo in Italia. Restate in contatto con il soundcheck di Radio 24, nostra ospite, la logopedista Nunzia Carrozza, per parlare della nostra voce, pregi e difetti. Soundcheck. Il suono della musica. All I did was wonder how your arms would be, and it happened to la voce di Chet Baker, It Could Happen to You, un classico del jazz per questo inimitabile musicista, meraviglioso trombettista ma anche cantante, e questa è la sua versione di questo classico che viene studiato nelle scuole di jazz, nelle scuole legate all'improvvisazione vocale, con questo assolo di Chet strepitoso che anch'io ho imparato a memoria, ma già ormai una trentina di anni fa. Siamo in compagnia della dottoressa Nunzia Carrozza, logopedista, pianista e insegnante di canto, per conoscere meglio il nostro strumento, la voce. Alcune norme igieniche per utilizzare al meglio e salvaguardare la nostra vocalità. Poche, rapide ed efficaci. E indolori. Bravo, prima di tutto l'idratazione, quindi bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, laddove si è impossibilitati, magari prima della performance si può fare una sorta di aerosol naturale, imbevendo una garzina con dell'acqua corrente, ispirando dalla garzina per 7-8 minuti. Ci sono molti colleghi che prima della performance e anche dopo la performance, per allentare la tensione, si fumano una sigarettona o bevono un bel cicchetto di whisky o altro. Purtroppo bocciate entrambe le pratiche, perché le corde vocali lavorerebbero, nel caso dell'utilizzo di alcol, che è un vasodilatatore, quindi lavorerebbero in iperemia, quindi sotto sforzo. Il fumo riscalda le corde vocali, quindi direi che proprio no, quello no. Anche per professionisti che magari non utilizzano la voce per motivi professionali ma sono costretti a parlare tanto, quindi sto parlando anche di insegnanti a scuola oppure nelle riunioni negli uffici in ambienti chiusi con le finestre sempre chiuse, magari i filtri dell'aria condizionata non funzionano tanto bene, quali consigli possiamo dare? Consiglio che mi viene da dire subito rapido è utilizzare il più possibile il naso per respirare, in maniera che funga da filtro per la presenza di pulviscolo, allergenio, quel che ci può essere in un ambiente non molto sano, insomma. Questo è vero, una volta nei club e anche nei teatri e nei cinema si fumava tantissimo, finalmente non si fuma più e quindi i cantanti in qualche modo si arrangiano, però certamente respirare dal naso, come dicevi tu dottoressa, è una cosa buona, perché a volte ti puoi prendere tonsilliti, laringiti, faringiti, proprio perché lo spettatore di fronte a te ha dato 2 colpi di tosse e tu, inspirando dalla bocca, hai beccato tutto quello che il Signore, tutti i malanni che il Signore si portava dietro, giusto? Giusto, giustissimo. Il naso è un ottimo filtro, anche se per i cantanti è un po' più complicato, perché hanno bisogno di una rapidità di rifornimento aereo, quindi spesso si è costretti a utilizzare la bocca. Esistono molti metodi per cantanti oggi, ce ne sono di buoni, meno buoni, ma alla fine tutti i metodi contemporanei cercano di farci capire come utilizzare al meglio la nostra voce naturale. Qual è la differenza fra la voce naturale e una voce impostata come nella didattica del canto lirico? Beh, ci sono delle differenze nella posizione della laringe, nell'uso della vibrazione cordale, eccetera, eccetera. Io mi sento di dire una sola cosa: non ci fossilizziamo su un unico metodo, perché quel che può andare bene per me magari non va bene per un'altra persona per raggiungere lo stesso obiettivo. Quindi l'importante è sapere come funziona il nostro strumento, pochi elementi di fisiologia, e capire quale strada da percorrere per raggiungere il nostro risultato. Un risultato eccellente lo ha raggiunto, ma già da parecchi anni, Philip Bailey, lo ricorderete, la voce solista degli Earth, Wind & Fire insieme al suo leader Maurice White. Philip Bailey qui ci fa ascoltare una sua personalissima versione di una composizione di Joe Zawinul intitolata My Indiscretions, qui al soundcheck di Radio 24. sweat for living in the light. Still awfully prone to the night. Awfully prone to the night. I'm walking past the newsstand. Skins attracting my bad eye again. I've got no business with illicit literature. Soundcheck, il suono della musica. E nella pausa continuavamo a parlare di voce e di alcune categorie di professionisti che in Italia e nel mondo utilizzano tantissimo la voce, e sono gli insegnanti, gli avvocati, anche i politici parlano tantissimo. A volte però bisognerebbe utilizzare il cerotto, non la mascherina, per alcuni personaggi. Comunque, questo è il soundcheck di Radio 24. Nostra ospite è la dottoressa Nunzia Carrozza, logopedista, alla quale io faccio i complimenti per l'attività, per i successi che ottieni anche come insegnante di canto e come pianista, e invidio molto il fatto che tu hai l'orecchio assoluto. Io, da musicista professionista, non ce l'ho, e quindi invidio molto questa tua peculiarità. Sì, effettivamente in Italia ci sono alcune categorie di persone che utilizzano molto la voce, come hai detto, cantanti, insegnanti, avvocati, eccetera, eccetera. Quindi la cosa che consiglio assolutamente di fare per tutti, riscaldamento vocale, prima di qualsiasi attività lavorativa. Ecco, perché poi magari in una giornata di afonia bisogna saltare la giornata di lavoro. E invece in una giornata di afonia utilizziamo la mascherina di Borragan che ti ho portato. La mascherina di Borragan, vediamo come funziona e a che cosa serve. Ok, allora va posizionata sul viso, fra una... Così? Perfetto, chiudi il foro centrale. Quindi... Ma se chiudo il foro centrale poi la voce diventa questa. Esatto, esatto, devi vocalizzare all'interno della mascherina, magari va bene anche una serie automatica come le numerazioni, quindi contare i numeri da 1 a 50 in base al tempo che hai e fare pause respiratorie ogni 3 numeri. Aprendo il foro qui. Per prendere aria. Per prendere aria, allora vado? Vai. 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vado avanti così. Esatto, esatto, questo ti permette di avere un riscaldamento vocale assolutamente rapido e di far retrarre due strutture che, diciamo, ufficiosamente chiameremo false corde. Il risultato finale, voce pronta, e se siamo stanchi o disfonici o afoni avremo sicuramente una migliore resa vocale dopo 10-15 minuti di mascherina. Ma pensate, un miracolo. È un miracolo, sì, davvero. E invece i cantanti, utilizzando la mascherina, possono fare i loro esercizi vocali utilizzando, posizionando sempre la mascherina, ricordandosi però di aprire il foro per inspirare, sennò poi possono anche restarci secchi. Esatto, per i cantanti l'effetto immediato è che avranno un suono immediatamente in maschera, tutti sappiamo che significa, quindi possono farlo utilizzando magari una serie di glissati ascendenti, discendenti, utilizzando la sillaba mi, eccetera, eccetera. Faccio una domanda tecnica da cantante e musicista: secondo te, dottoressa, Bobby McFerrin e Speranza Spalding, prima di registrare Every Time, tratto dal nuovo album di Bobby McFerrin bellissimo dedicato agli Spiritual, il papà era un grande interprete di Spiritual, hanno utilizzato la mascherina? Ma penso proprio di sì. Grazie alla dottoressa Nunzia Carrozza per essere stata con noi, grazie, e spero di rivederti prestissimo con altri consigli, altre mascherine e altri oggetti particolari come questo bel regalo che mi hai fatto oggi. Sicuramente tornerò con dei gadget meravigliosi. Tipo? Il secchio di metallo, per esempio. Secchio di metallo, mi auguro non pieno di letame o altre cose. No, assolutamente no. Grazie a tutti, vi lascio con qualcosa di meraviglioso da ascoltare. The Swingle Singers, una formazione vocale francese, questi signori hanno cantato tutto il cantabile e hanno riproposto addirittura tutto il repertorio di Bach, e qui invece li sentiamo all'opera con una sinfonia di Mozart per sole voci. Conosci i Swingle Singers? Me li hai fatti conoscere meravigliosamente tu. Ecco, stanno per arrivare in sol minore K550 dal repertorio di Mozart, molto allegro, Swingle Singers al Soundcheck di Radio 24. Buona giornata a tutti. Soundcheck. Il suono della musica.